Allora, gli uomini della destra erano aristocratici e grandi proprietari terrieri. Essi facevano politica al solo scopo di servire lo Stato e non per elevarsi socialmente ed arricchirsi. Inoltre amministravano le finanze statali con la stessa attenzione con cui curavano i propri patrimoni personali. È una citazione questa, giuntami attraverso l'amica Patrizia, che a sua volta l'ha ricavata ad una di quelle trafile via email con cui ci si sforza di questi tempi di sanare in proprio le lacune dei mezzi di informazione. La citazione è da un manuale di storia per la nuova scuola media riformata, per la precisione dal capitolo 2, paragrafo 1 de I nuovi sentieri della storia, il Novecento, di tale Bellesini Federica, un volume che suppongo destinato alle terze classi. Titolo e collocazione del brano fanno supporre che la destra a cui ci si riferisce, con la maiuscola, sia quella storica di Quintino Sella e Bettino Ricasoli, che effettivamente erano aristocratici proprietari terrieri e su cui il livello morale non ha mai trovato nessuno da ridire. Quanto alla loro probità di amministratori, insomma, della destra facevano parte anche figuri come Urbano Rattazzi, e tra tutti avevano una certa tendenza a scaricare il peso dei conti pubblici più su certe classi che su altre, per cui preferivano la tassa sul macinato all'imposta del sorreddito, ma questa è una cosa che a destra fanno tutti. Quello che abbiamo letto non sarà un giudizio storico degno di un Droysen o di un Cantimori, ma una sua generica legittimità. Qualche studente particolarmente sveglio potrebbe persino trarne spunto per riflettere sulle leggi ad personam di Berlusconi. Se non che la citazione prosegue. Gli uomini della sinistra, invece, anche qui con la maiuscola, sarà per par condicio, invece sono professionisti, imprenditori e avvocati, disposti a far carriera in qualunque modo, talvolta criticando persino il bene della nazione ai propri interessi. Qui la citazione deve essere un po' ruffata, ma si capisce lo stesso. La grande differenza tra i governi della destra e quelli della sinistra, comunque, consiste soprattutto nella diversità del loro atteggiamento morale e politico. Abbiamo capito, direte voi, nella scuola riformata della ministra Moratti c'è spazio evidentemente per la propaganda più becera. È evidente che quel giudizio in quei termini lì non vuole limitarsi alla generazione di De Pretis e dei Crispi, ma è stato accuratamente formulato in modo da toccare almeno in via allusiva delle realtà a noi più vicine, insomma, fino a giungere a una condanna metastorica di qualsiasi sinistra. Quali che siano i suoi metodi di storica e di ricercatrice, la Bellesini Federica ne ha accumulate certamente parecchi sul piano ideologico. Il fatto che un manuale che esibisce un passaggio tanto rozzo non sia pubblicato dalla casa editrice Manette e Manganelli, ma esca per i tipi dell'Istituto Geografico di Agostini, un editore normalmente serio, è ulteriore testimonianza della crisi in cui sotto questa classe dirigente versa la nostra cultura, anche a livello scolastico ed editoriale. Sono d'accordo, naturalmente. Permettetemi però di farvi notare la pulizia estrema, vorrei dire l'eleganza, con la quale da Bellesini Federica fa il suo discutibile lavoro. Lei non sottolinea, non azzarda, non allude, non instaura paragoni. Si limita ad usare l'uso dei tempi. Si colloca come livello temporale al momento dell'ascesa al potere della sinistra storica, più o meno attorno al 1876, e questo le basta per usare il presente. Della destra si parla al passato, perché nel 76 al potere non ce l'ha più, ma è un passato, si capisce bene, che la consegna alla storia. Gli uomini della sinistra sono dei ladri al presente. Badano solo ai fatti propri, sono disposti a fare carriera in qualsiasi modo, antepongono i loro interessi al bene della nazione, insomma hanno un atteggiamento morale tutto diverso. Le implicite conclusioni, cari ragazzi, pur che abbiate appena un poco di sale in zucca, potete trarle benissimo voi. Io non ve lo dico perché di mestiere faccio la storica, ma non vi ci dovrebbe volere soverchia fatica. Restiamo in fidente attesa dei prossimi manuali di storia per i licei.